di me che mi spoglia, mi fa bene, nasce qui una storia, affidarti libertà e memoria e poi ideali che vuoi. Il silenzio scende giù come pioggia fra gli impulsi, cerco te, le tue braccia, traccio qui un amore che conta e poi l'universo per noi. Io mi abbandono a diventare per dopo una vita, che vorrei, che dimensione, io non so, io non so, io non so, io non so, almeno tu dammi la forza un giorno in più, un fiore rosso, un fiore blu, due rami della vita noi. Squad.